Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con la regista Antonietta De Lillo per presentare il suo documentario Fulci Talks al cinema da giovedì 3 giugno 2021. Antonietta, ben trovata. Salve, ciao a tutti. Questa avventura che cos'è? Io ho già fatto un lavoro di found footage con Alda Merini, non so se ti ricordi, sì. Con la pasta della porta accanto. E anche qui, dopo molti anni, ho ripreso il girato di questa lunga conversazione con Lucio Fulci e ne ho realizzato un nuovo ritratto, completamente inedito, direi quasi un uncut, cioè un ritratto di un'ora e mezzo, dove Fulci parla di tutto il cinema, non solo il suo, del cinema internazionale, del cinema italiano, ovviamente non risparmia critiche a nessuno, e nel frattempo ci racconta del suo cinema, che non è soltanto il cinema dell'horror, ma anche il cinema dei gialli, anche il cinema del west, anche il cinema di Ciccio e Franco, insomma un terrorista di genere, come si ama lui stesso definire, e nel frattempo anche il tempo ha reso un ottimo lavoro a Lucio Fulci, perché nessuno si è dimenticato di lui, anzi se possibile ha una serie di fan giovanissimi che lo amano moltissimo. Questo ritratto infatti è stato già venduto in Giappone, in Spagna, cioè gira per il mondo e ora inizierà a girare anche per le sale e per le arene italiane, in una formula molto strana. Da una parte appunto l'uscita del ritratto Fulci Talks e dall'altra parte anche la proposta, perché Mare Chiaro Film, che distribuisce questo lavoro, ha creato una collaborazione con Medusa, per cui verrà anche distribuito in una forma di mini rassegna Fulci più Fulci più Fulci, cioè Fulci tre volte. Quindi accanto a questo lavoro è possibile anche vedere, a seconda se gli esercenti e le arene accoglieranno anche l'idea di questa strana programmazione, sia Sette Note in Nero che I Quattro dell'Apocalisse. Una curiosità, visto che avevi fatto un'operazione simile anche con Alda Merini, quindi tendi ad accumulare dei lavori che poi restano nel cassetto? Io sono una donna che da una parte guarda molto al futuro, il film partecipato, anche tecnologica, e dall'altra parte capisco che è importante anche conservare i propri materiali, e sono anche una sostenitrice del riuso in qualche modo. Per la seconda volta non voglio dire di aver ragione, ma voglio dire che il girato mi ha riservato delle sorprese molto belle, sia su Alda Merini ma anche su Lucio Fulci, cioè nonostante io sia la stessa regista di 30 anni fa, il materiale è lo stesso, però il tempo a volte non passa in vano, e quindi prendere questo materiale, riaverlo tra le mani, ha fatto sì che è un altro film rispetto alla Notte Americana del dottor Fulci, che ormai ho fatto più di 30 anni fa, un altro film come concezione, come montaggio, come materiali. Quindi sì, io sono una donna che mi piace riciclare, sono per un cinema sostenibile e circolare. Com'era nata questa lunga conversazione con Fulci? Grazie al mio amico Marcello Garofalo, critico e regista soprattino, che molti anni fa, appunto perché io ero una giovane regista quando ho incontrato Lucio Fulci, che avevo già una sola assenza, gli piaceva l'idea di fare incontrargli questo regista di genere, di film di serie B, tra virgolette. E sono stato proprio lui l'artefice di questo incontro, in un momento molto particolare della vita di Lucio Fulci, perché era il momento in cui un po' la critica si accorgeva di lui e delle capacità e anche della qualità del suo cinema, perché insomma Fulci, ve ne accorgerete per chi andrà a vedere il lavoro, è un uomo colto. Non a caso, insomma, delle sue sequenze hanno ispirato Tarantino o la musica di Fritti, che peraltro ha partecipato a questo ritratto donando un pezzo di musica assolutamente bellissimo che chiude il film. Quindi direi che l'artefice, il vero regista occulto di tutto ciò, è Marcello Garofalo, che firma insieme a me l'intervista a Lucio Fulci. Che sensazioni ne hai ricavato da questo incontro? La sensazione che ne ho ricavato da questo rincontro, oserei dire, sì, con questo materiale, è che Fulci è stato un regista anche molto politico. Nel suo cinema, in qualche modo, tra i zombie che lui dice sono gli uomini di potere, all'onorevole piacciono, ho ricavato uno che era un regista politico, e la seconda cosa è che amava il cinema, quindi ho trovato un uomo generoso, aperto, che ha anche rotolato nella vita e anche caduto, eccetera, però sicuramente direi che la vita l'ha vissuta con spericolatezza e coraggio. Che distribuzione sarà? Beh, sarà una distribuzione come il prodotto è un piccolo prodotto, è un ritratto, però devo dire che se il cinema mainstream è sempre più in crisi, e speriamo che invece ora post-Covid non sarà così perché ci sarà tanta voglia di uscire, di incontrarci, però negli ultimi anni il cinema, diciamo, ibrido, che non è un cinema di finzione, ha sempre trovato nelle città, capozone, nelle rassegne, trova sempre più spazi, quindi sarà così un'occasione per incontrare il pubblico dal vero, per ritrovarmi in quelle sale che da anni sono sale di resistenza e che secondo me negli ultimi anni hanno trovato anche maggiore gradimento da parte del pubblico. Oggi tanto se si vuol vedere un lavoro lo si vede nelle piattaforme, a cinema, in tanti modi, e il cinema resiste e resisterà, secondo me, non perché è l'unico modo per vedere i nostri film, ma perché è il modo per vedere i nostri film, cioè il modo più umano, più bello, di cui ne abbiamo proprio più esigenza, perché è il modo che ci permette di incontrarci di persone, di non essere solo delle voci oppure una figura in uno schermo, e quindi sarà una piccola ma costante e profonda distribuzione che spero che possa andare avanti tutta l'estate. Il documentario Fulci Talks al cinema da giovedì 3 giugno 2021, un saluto e un ringraziamento alla regista Antonietta De Lillo, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, buone cose, ciao ciao. Con Daniele Biacchetti, regista del film Il sogno e la ragione, in tour da lunedì 31 maggio 2021 al Teatro della Cooperativa. Ben trovato. Ciao a voi, felice di risentirvi. Com'è andata questa prima in un teatro? Bellissimo, in un teatro di 210 posti ce ne hanno dati 47, 47 erano tutti lì, distanziati, coraggiosi, perché comunque anche se i dati del contagio sono certamente migliori di alcuni mesi fa, ma stiamo sempre parlando di una situazione sempre complicata, in miglioramento. Alcune considerazioni sono soprattutto sulla situazione più generale in cui versa lo spettacolo, la cultura, dove siamo stati musicisti, attori, artisti, registi, dimenticati, per non parlare di altro, diciamo tagliati fuori completamente da ogni tipo di possibilità anche di tipo risarcitorio. Con me sul palco, prima della proiezione, c'era il mio amico Massimo Priviero, artista bravissimo, che questo anno di lockdown ha prodotto un album. Poi ho sentito in questi giorni anche Marino Severini dei Gang, che ha prodotto un album con un crowdfunding straordinario. Anche questo film, Il sogno e la ragione, da Harlem a Black Lives Matter, che avevo presentato anche con te dal punto di vista del libro, quando era uscito, è nato e realizzato in un periodo complicatissimo dove il pubblico ha risposto benissimo dal punto di vista proprio del finanziamento, ha compreso perfettamente qual è il mio modo di lavorare ormai da tempo, cioè. Per me Scafandri è un progetto proprio di produzione, che significa condividere con il pubblico un progetto culturale e poi portarlo in giro attraverso una rete di distribuzione alternativa o parzialmente alternativa rispetto a quella ufficiale. In tempi non sospetti i miei film sono stati presentati sia nei cinema cosiddetti d'essai o cinema di prima visione come l'Anteo, ma che hanno però comunque un occhio verso le produzioni indipendenti. E poi, poiché tanto di quel pubblico è anche di tipo associativo, quindi sono associazioni che poi hanno tutto l'interesse non solo a finanziare un progetto, ma anche poi a farlo vedere, e quindi sono anche organizzatori di spettacolo. Si può fare il 26, sono a Cusano Milanino, vicino a Milano. Il 3 di luglio vado in un bellissimo festival cinematografico indipendente che si chiama Lunigiana Cinema Festival, a prendere un premio proprio per questo film. Il 18 di luglio sarò a Piacenza con Seba Pezzani per un festival mitico che si tiene ogni anno, da Mississippi al Po, dove si parla d'America, con uno sguardo però ovviamente verso quell'America che ci piace e quell'America che abbiamo visto poi diventare fondamentale nelle ultime elezioni, che hanno cacciato via un tiranno, un nazista, un fascista come Donald Trump. Ecco, dicevo proprio al Teatro della Cooperativa che quando montavo il film, tra dicembre e febbraio, avevo tre monitor. Uno mi serviva per vedere in preview tutte le immagini, sia quelle illustrate da Giulio Peranzoni che quelle vere d'archivio, che sono poi il funerale di Bob Kennedy, ucciso nel 1968, mentre taglia con questo treno l'America degli ultimi disgraziati, che sono lì a salutare uno che poteva diventare presidente degli Stati Uniti e che probabilmente con le sue idee basti soltanto rileggersi con attenzione il discorso famoso, quello sul prodotto interno lordo, aveva un'idea del mondo, aveva un'idea dell'economia, della politica, che era molto diversa. Pur essendo un'espressione del sistema capitalistico, era comunque una spuria e come tale è stato trattato, cioè è stato ucciso. Pure le bellissime immagini di quel raduno del 1963 a Washington di Martin Luther King, con quella oceanica folla che lo guarda e che lo ascolta mentre continua a ripetere la parola I have a dream e parla ad un'America che vuole e pretende dei diritti umani. E mentre avevo queste immagini con l'altro monitor che invece mi serviva per montarle, avevo un monitor che il 6 di gennaio si era trasformato in una realtà vera, cioè dalla finzione o comunque tale delle illustrazioni, quel fascismo, quel nazismo, quel razzismo presente in America diventava una realtà con l'assalto fascista al Capitol Hill, con tutto quello che abbiamo visto, cioè l'assalto di una parte consistente dell'elettorato di Donald Trump, che nonostante Trump se ne sia andato continua ad essere non più fortunatamente protagonista, ma però presente nella società americana. Però come dimostro nel film, mi stupisco di chi si stupisce di quello che è accaduto al Capitol Hill, che è solo la conseguenza di qualcosa che era partito 400 anni prima, quando sbarcarono nel 1619 in Virginia i primi schiavi, la storia dimenticata su cui si è fondato il mito degli Stati Uniti d'America, cioè non il Mayflower, il Pilgrim Father nel 1620, bensì lo schiavismo dall'Angola alle coste americane. E di quello schiavismo, di quel razzismo, di quel fascismo e in alcuni tratti anche di quel nazismo di cui è intrisa quella che viene chiamata America, che però sono gli Stati Uniti d'America, a me piace ricordare questo che ho fatto nel film, che ci sono state invece tante figure eccezionali, che sono Sojourner Truth o Harriet Tubman, le schiave che si liberano dal regime di schiavitù e liberano a loro volta gli schiavi, oppure Claudette Colvin o Rosa Parks, che decidono di non alzarsi dal seggiolino dell'autobus 2387 di Montgomery, o i grandi discorsi pacifisti di Martin Luther King, quelli magari più duri, più radicali di Malcolm X, o il tentativo politico di un bianco di emancipare anche i neri come Bob Kennedy, fino ad arrivare ai radicali neri straordinari, alle figure delle Black Panther e di Angela Davis, che ancora oggi continua ad arringare ai manifestanti fino a qualche mese fa, che protestavano contro i cortei dei fascisti in giro per l'America, non tanto la guida del movimento Black Lives Matter, ma certamente un anello di congiunzione tra la vecchia politica radicale nera di Angela Davis e le nuove leve che oggi hanno portato anche all'interno del Capitol Hill senatori o deputati che provengono anche da quella tradizione nera radicale che si è formata durante le tante, tantissime lotte dure, durissime, represse dalla polizia in seguito alla morte di George Floyd, che è quella che abbiamo visto e quello che ho fatto vedere anche nel film, cioè la morte in diretta e il fatto che attraverso un'immagine così dura e terribile, però io dico nel film, quanti altri George Floyd ci sono stati in America, quanti George Floyd ci sono stati in giro per il mondo e anche nel nostro paese, in Italia, cioè quante persone sono state fermate in modo illegale e poi uccise. George Floyd, nella sfortuna terribile della sua morte, ha avuto il privilegio di far vedere la sua morte in diretta e quindi di far scattare quel meccanismo che si chiama indignazione. Se però non ci fosse stata la possibilità di riprendere tutte quelle immagini che erano state scattate in modo automatico dalle varie telecamere in quell'incrocio maledetto a Minneapolis, oppure Ornett Barnett, una ragazza che si è fermata e ha avuto il coraggio di girare quel suo telefonino, la morte in diretta di George Floyd, ecco, se non ci fosse stata quell'America che ha un occhio critico ed è secondo me ancora parzialmente un'America antifascista, un'America che esprime ancora grandi valori di solidarietà e di democrazia. Però non dobbiamo dimenticare che Trump se n'è andato, ma sono rimasti i trumpisti, quelli che Trump aveva finanziato in tutti quegli anni e che da piccoli gruppi di neofascisti sono diventati gruppi oggi in grado non solo di fare il Capitol Hill, ma forse ancora di determinare uno spostamento a destra del paese nel caso l'amministrazione di Biden e di Kamala Harris dovesse fallire per qualsiasi tipo di motivo. Daniele, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Innanzitutto la pagina Facebook del film e del libro, Il sogno alla ragione, lì trovate tutti gli aggiornamenti, anche i video, il trailer, e poi il mio sito danieleviacchesi.it, e poi naturalmente chi vuole organizzare una proiezione oppure un dibattito su quel film può scrivere a viacchesi@gmail.com. Il sogno e la ragione di Daniele Biacchessi, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Con Andrea Inzerillo, direttore artistico, per presentare la prima parte dell'undicesima edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo, cantieri culturali alla Zisa, dal 3 al 6 giugno 2021. Ben trovato. Grazie, ben trovato a te. È già cominciato con alcune parti del festival. Sì, il festival è già cominciato perché abbiamo invitato il regista palestinese Kamal Al-Jafari a tenere a Palermo un ciclo di quelle che noi chiamiamo nuove lezioni siciliane, che sono degli appuntamenti teorici, delle proiezioni in sala e soprattutto un laboratorio pratico con 12 partecipanti che vengono da tutta Italia ma anche dalla Germania e dalla Francia, e due proiezioni dei film di Kamal al-Zafari sono state presentate sabato e domenica scorsa appunto al Cinema De Seta, con una grande partecipazione di pubblico, anche perché in questo momento ovviamente il conflitto israelo-palestinese è, ahimè, tristemente di nuova attualità e di conseguenza c'è grande attenzione ai temi che questo regista tratta in maniera molto poetica anche. E dentro il festival presenteremo il suo ultimo film, che si chiama An Unusual Summer, che proprio negli stessi giorni sarà presentato anche al Festival di Rotterdam. Per quanto riguarda invece le proiezioni, ci parli un po' del programma? Lo scorso anno appunto la 10ª edizione l'avevamo sospesa, posposta e poi recuperata in presenza e anche in parte online a settembre. Quest'anno ci siamo detti che sicuramente appunto per un festival come Sicilia Queer la parte in presenza è assolutamente indispensabile, perché il nostro festival è un luogo di incontro, di discussione e di condivisione e non avrebbe senso svolgerlo soltanto online, e di conseguenza, viste le limitazioni che ancora caratterizzano le sale, abbiamo deciso di spezzare il festival in due. Quindi in questa prima parte facciamo una serie di sezioni storiche del festival che lo scorso anno per esempio abbiamo dovuto sospendere perché non c'era sufficiente spazio. Quindi quest'anno il focus sostanzialmente è quello della sezione presenze, nella quale noi realizziamo una retrospettiva integrale di un autore. Quest'anno abbiamo invitato il portoghese Carlos Conceição e avremo lui in dialogo con altri registi come l'inglese Beatrice Gibson o come gli italiani Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, e attraverseremo la sua opera insieme anche a questi ospiti. Poi naturalmente riprendiamo anche altre sezioni classiche del festival come Panorama Queer, nel quale presenteremo film da Bertrand Bonelot a Bruce LaBruce a Patrick Chia, ma anche il film di Wong Kar-wai Happy Together con cui apriamo il festival, o il tedesco Future Dry che ha vinto il Teddy Award alla Berlinale lo scorso anno con cui lo chiudiamo, e infine anche la nostra sezione di storia del cinema che si chiama Carte Postale a Serge Danet, nella quale presentiamo un bellissimo film in anteprima nazionale dedicato a Paolo Branco, che è un produttore indipendente mitico, produttore di Wenders, di Oliveira, Ruiz e così via, e il film è anche in qualche modo un omaggio a Serge Danet, figura alla quale noi teniamo molto e che ci sembra più che significativo ricordare in un festival come il nostro. Nel complesso quante saranno le opere presentate in questa prima parte? Dovrebbero essere 17-18, qualcosa del genere, tra corti e lungometraggi. Poi appunto a settembre invece riprenderemo le sezioni competitive del festival, quindi il concorso di cortometraggi, il concorso di lungometraggi e le altre sezioni, per esempio retrovie italiane, c'è cioè la sezione di storia del cinema italiano, il premio Nino Gennaro, insomma le altre sezioni classiche del Sicilia Queer. Insomma, dividere in due è un tentativo anomalo, ma anche altri festival internazionali hanno provato a farlo. Però l'obiettivo è quello appunto di mantenere lo spirito del festival e quindi di convocare le persone in presenza a condividere le visioni e l'esperienza del festival. Come sarà nello spazio dei cantieri alla Zisa e anche gli orari? Ancora sussistendo ai noi il coprifuoco fino alle 23, siamo costretti a fare soltanto tre proiezioni, una alle 3:30, una alle 18 e una alle 20:30, tranne domenica 6 giugno quando faremo anche una proiezione di mattina alle 11. L'accesso in sala naturalmente al Cinema De Seta è limitato, il Cinema De Seta ha quasi 500 posti, noi potremo accogliere circa 180 spettatori, secondo appunto le indicazioni attualmente vigenti gli spettatori in sala dovranno mantenere la mascherina, ma appunto l'esperimento dei giorni scorsi con le proiezioni di Kamal al-Zafari ci dice che intanto sono venute più di 200 persone in totale, la gente ha voglia di cinema, ha voglia di confrontarsi anche con un cinema diverso da quello che solitamente si vede, e non è la mascherina, ecco, a impedire questa voglia, il che è confortante. Tra l'altro in un periodo in cui Palermo è balzata alla cronaca per un grave episodio di omofobia.